24, i gialli della storia. Ogni guerra lascia una lunga ombra dietro di sé, soprattutto le guerre tra i popoli che condividono lo stesso territorio. Nel caso di Radko Mladic, ad esempio, il capo dell'esercito serbo-bosniaco, entrambi i suoi genitori furono massacrati dagli Ustascia, i fascisti croati, quando lui aveva solo 2 anni. I rischi sono ancora maggiori quando dalla fine di un conflitto sono passati solo 10-20 anni. Una nuova generazione di giovani cresce alimentandosi di racconti pieni di odio e si sente in dovere di vendicare ciò che è successo. E questo va avanti per generazioni. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'orrore della Shoah viene raccontata dai superstiti dei campi di sterminio, viene rivissuto nell'aula del processo di Norimberga e descritto in migliaia di documenti. La comunità internazionale giura solennemente che il genocidio non dovrà mai più ripetersi. Quel giuramento non sarà mantenuto. Dopo pochi decenni, all'inizio degli anni 90, la storia del genocidio si arricchirà di nuovi sconvolgenti capitoli. Vendette scatenate da popolazioni che hanno subito discriminazioni e violenze intollerabili. È allora che la vendetta si trasforma in genocidio. La guerra diventa fratricida e la violenza irrompe all'interno di popoli o comunità che hanno vissuto dentro gli stessi confini e parlano la stessa lingua. L'orrore dei genocidi in Ruanda nel 94, nell'ex Jugoslavia nel 91, diventano esempi incancellabili. Dal 45 serbi, croati e musulmani vivono in uno stato di relativa pace sotto il pugno di ferro del regime comunista di Tito. Il vecchio leader muore il 4 maggio dell'80. Vecchi risentimenti e un feroce orgoglio nazionalista esplodono in tutto il paese. L'ascesa al potere di Milošević è come una miccia sul fuoco dell'odio etnico. Milošević è a capo della Serbia, una delle nazioni più forti e popolose dei Balcani. Michael Ignatieff, storico, ha studiato l'origine del conflitto tra serbi e croati. Nei Balcani la politica dà il peggio di sé. A dare il via a tutto è la Serbia, con Milošević e la sua idea di una grande Serbia. Milošević fa appello all'orgoglio nazionale serbo, meglio alla paranoia serba, specialmente tra i serbi della Croazia. Milošević afferma: voi serbi di Croazia siete in pericolo. I croati vi massacreranno, vi sgozzeranno di notte. L'unico modo per essere al sicuro è di unirvi a noi nella futura grande Serbia. Milošević fa leva sulla paranoia, gioca sulla paura della gente. E ciascuno comincia a guardare il proprio vicino di casa, o i passanti per strada, o al bar, o nei ristoranti, e si chiede: vivo in mezzo a loro e sono una minoranza. Sono davvero al sicuro. La prima città colpita dalla guerra è Vukovar, che dopo alcuni mesi di continui bombardamenti, il 18 novembre del 91 cade nelle mani dei serbi. I soldati serbi razziano l'ospedale locale e non risparmiano nessuno. E lì comincia la prova generale del genocidio. Sentiamo le parole di Susan Sirkin, testimone dei ritrovamenti. Quello che abbiamo scoperto su queste fosse è agghiacciante. Tutti i pazienti, i soldati feriti e i civili ricoverati sono stati prelevati da camion dell'esercito nazionale jugoslavo e condotti in quel piccolo villaggio. Nella notte sono stati radunati in un piccolo magazzino, spogliati e picchiati. Il giorno dopo sono stati tutti messi in fila e uccisi. Poi i serbi hanno sepolto i cadaveri, più o meno 200, in questa fossa. Abbiamo trovato i cadaveri ancora con i pigiami o con le pende dell'ospedale. Abbiamo trovato anche delle grucce, a testimonianza che alcuni erano disabili o feriti. Alcuni mesi dopo il massacro di Vukovar, anche la Bosnia-Herzegovina proclama la propria indipendenza. La nuova repubblica è costituita da una miscela esplosiva di etnie diverse. Ben presto serbi, croati e musulmani cominciano a massacrare le minoranze all'interno del proprio enclave. La guerra in Bosnia diventerà il conflitto più sanguinoso e crudele che l'Europa abbia visto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E Milosevic ricorda spesso ai serbi i massacri compiuti dai musulmani in Kosovo, anche se parla di vicende accadute 600 anni prima. Ancora il professore Ignatieff. Molti serbi erano convinti che i musulmani avessero massacrato bambini cristiani per il semplice piacere di farlo. Naturalmente questa leggenda non aveva alcun riscontro nella realtà, così come non esisteva fondamento a molte delle paure che i musulmani avevano riguardo ai serbi. Ed è attraverso questa propaganda che nasce questo nuovo genocidio. Dopo meno di 50 anni ricompaiono i campi di concentramento e nelle case di tutto il mondo si vedono le immagini dei volti emaciati dei musulmani dietro al filo spinato. E allora la comunità internazionale capisce che deve intervenire, come dice Martin Bell, ex reporter di guerra. La comunità internazionale capì che doveva reagire, ma la reazione fu l'attuazione di quelle che potremmo definire quasi misure, insomma di mezze misure. Furono introdotte sanzioni economiche, la no-fly zone o le tristemente note aree protette. Ce n'erano sei di queste aree e secondo le Nazioni Unite la popolazione al loro interno, in prevalenza musulmana, avrebbe dovuto abbandonare le armi perché protetta dall'ONU. Sembra che la soluzione possa funzionare, che i musulmani abbiano un rifugio, ma poi c'è Srebrenica. Nel maggio del 95 i serbi catturarono alcuni militari dell'ONU. L'ONU dovette capitolare e negoziare per farli liberare. Questo ovviamente rafforzò i serbi, che si sentirono liberi di entrare a Srebrenica in modo da poter dislocare i loro militari su altri fronti. L'ONU minacciò di colpirli con degli attacchi aerei. Ma poi non se ne fece nulla. La resistenza bosniaca crollò e le truppe delle Nazioni Unite, che in quell'enclave erano composte da 308 soldati olandesi, semplicemente se ne andarono. Credo sia una delle pagine più vergognose della storia dell'ONU. L'11 luglio del 95, Ratko Mladic e il suo esercito serbo-bosniaco entrano senza incontrare nessuna resistenza a Srebrenica. I soldati cominciano a separare gli uomini dalle donne e dai bambini. È l'inizio di un genocidio. Un convoglio di pullman conduce donne e bambini lontano dalla città. Gli uomini e i ragazzi invece vengono raggruppati e portati verso i luoghi dove saranno giustiziati. Nel giro di 3 giorni la popolazione maschile di Srebrenica e altre 8.000 persone vengono massacrate e sepolte in fosse comuni. Mio figlio era un giornalista. L'ultima volta che ci ha contattato da Srebrenica è stato il 10 luglio, intorno alle 7. Ci disse che se non fossero arrivati gli aiuti, quella sarebbe stata l'ultima volta in cui ci saremmo sentiti. Ma nessun aiuto è mai arrivato e non l'abbiamo mai più sentito. Andai con mio marito a Potocari sperando che il battaglione ci avrebbe protetto. Rimanemmo lì 2 notti, vedemmo cose orribili. I serbi arrivarono, portarono via gli uomini e violentarono le donne. Massacravano le persone dietro le loro stesse case. Una cosa orrenda. Lo scopo della pulizia etnica perpetrato dai serbi in Bosnia è quello di creare uno Stato etnicamente puro. Tutti i croati e i musulmani vengono espulsi dalle zone presidiate dai serbi. In queste aree i serbi distruggono tutte le moschee e ogni traccia della cultura musulmana. Fine ultimo della pulizia etnica attuata in questa zona è assicurarsi che nessuno possa mai farvi ritorno. Eppure serbi e croati parlano praticamente la stessa lingua, hanno confessioni cristiane diverse, ortodosse i serbi, cattolica i croati, ciononostante hanno le stesse tradizioni slave e una cultura molto simile. Nel passato molti di loro si definivano semplicemente jugoslavi e non serbi, croati, sloveni o musulmani. ma questo non ha impedito alle nazioni balcaniche di distruggersi in una delle più violente guerre etniche mai combattute. Ancora Ignatieff. Sfido chiunque a riconoscere un serbo da un croato, sono praticamente identici. Magari i nomi vengono pronunciati in modo appena diverso. Uno frequenta la chiesa cattolica, l'altro la chiesa ortodossa, ammesso che vadano in chiesa, cosa che molti neppure fanno. Le differenze sono infinitesimali, ma più sono infinitesimali, più diventano essenziali per caratterizzare un'identità. È un paradosso. Le differenze reali sono infinitamente minori rispetto a quelle immaginarie. È questo che dovremmo cercare di capire. Come sia possibile che due popoli che hanno così tanto in comune finiscano per odiarsi fino a questo punto? Neanche l'intervento della NATO, la costituzione di un tribunale speciale per giudicare Milosevic per i crimini di guerra basterà a placare l'odio tra questi due popoli e a riportare tutto alla normalità. I consider this tribunal false tribunal and indictments false indictments. It is illegal being not appointed by UN General Assembly, so I have no need to appoint counsel to illegal organ. Dai Balcani all'Africa, negli stessi anni un terribile conflitto etnico sconvolge Ruanda. Due tribù, gli Hutu e i Tutsi, che per secoli hanno vissuto fianco a fianco, danno vita a una guerra che in solo 100 giorni nel 94 porta al massacro di oltre 1 milione di persone. È il professor Christian Scherrer che ci spiega le caratteristiche dei due gruppi. Tutsi e Hutu hanno la stessa lingua, la stessa cultura. Pregano lo stesso Dio, un Dio portato in Africa dai missionari bianchi. Sono popoli strettamente legati tra loro, con 8 secoli di storia comune. Quando i colonizzatori arrivano in Africa, la loro politica è quella di tenere le tribù ben separate e in rigorosa competizione tra loro. Il genocidio ruandese affonda le sue radici proprio nell'epoca della dominazione coloniale, prima dei tedeschi e poi dei belgi. Sono loro a favorire la tribù minoritaria, i Tutsi, a discapito degli Hutu, che è l'etnia più numerosa. Ovviamente fu una scelta mirata. I Tutsi naturalmente ebbero tutto da guadagnarci. Se tu decidi che una tribù è nata per governare e l'altra per essere sottomessa, quest'ultima ovviamente la subirà come un'imposizione. All'improvviso essere Hutu o essere Tutsi diviene così una questione fondamentale di identità. Ai Tutsi fu imposto di bere latte e mangiare carne per migliorare la propria razza, mentre gli Hutu potevano nutrirsi solo di zuppa di banana o cose simili. I colonizzatori facevano anche questo. Quando il Belgio lascia il paese nel 59, lo lascia ormai spaccato in due ed è inevitabile una lotta per il potere. E gli Hutu, che sono la maggioranza, prendono il potere in Ruanda e allora comincia una caccia all'uomo. E quelli che non scappano in Burundi si organizzano in una guerriglia anti-Hutu. È di fatto una guerra. Ne parla Alphonsine Murebayer, che coordina il Genocide Memorial. Il genocidio in Ruanda viene ufficialmente datato al 1994. In realtà lo sterminio dei Tutsi era cominciato fin dal 1959. Già da quell'anno sono iniziate le uccisioni di massa, poi proseguite nel 1963, nel 67 e nel 73. Quello che è avvenuto nel 94 è sostanzialmente la soluzione finale, la definitiva pulizia etnica di quelli che appartenevano all'etnia Tutsi. Il governo Hutu organizza dei veri e propri squadroni della morte. A finanziare questo programma sono i fondi della cooperazione internazionale. L'Europa ha infatti avviato un piano di sviluppo quadriennale che in realtà è diventato il fondo spese per il genocidio. Lo racconta la giornalista Linda Melbourne. Il genocidio in Ruanda è stato pianificato in tutti i minimi dettagli. Si può risalire all'acquisto di ogni singolo macete, di ogni singola arma da fuoco. I Kalashnikov furono acquistati dall'Egitto. L'esercito si è preparato ed addestrato. Tutto questo è avvenuto ben prima del genocidio vero e proprio. La fase finale viene studiata con attenzione. Un gruppo estremista Hutu uccide il presidente Habyarimana, che è anche lui dell'etnia Hutu, abbattendo il suo aereo e poi addossando la responsabilità ai Tutsi. Immediatamente dopo viene impartito l'ordine alle squadre della morte di massacrare ogni singolo Tutsi per difendere la causa degli Hutu. È l'inizio di 100 giorni di massacri senza fine. In poco più di 3 mesi le milizie Hutu abbattono a colpi di macete circa 1 milione di Tutsi e di Hutu moderati che si oppongono alla carneficina. Ancora Alphonsine Murebayer e Christian Scherrer. Erano le stesse autorità a sobillare la popolazione affinché uccidesse quanti più Tutsi possibile. Sostennero che Habyarimana era stato ucciso dai Tutsi, che se gli Hutu non avessero ucciso i Tutsi avrebbero sterminato gli Hutu. E gli Hutu obbedivano, erano poverissimi, analfabeti, e le autorità avevano promesso loro posti di lavoro e soldi. Obbedivano. Fino a quel momento avevano vissuto in armonia, condividendo i pochi beni, e soprattutto le tradizioni, la lingua, la cultura. È impossibile distinguere un Hutu da un Tutsi se non si guarda la sua carta d'identità. Non a caso, molti Hutu furono uccisi semplicemente perché privi di documenti di identità che dimostrassero che non erano Tutsi. Quindi sembri Tutsi, perciò devi morire. I bambini venivano classificati a seconda del gruppo etnico dei loro padri. Se un bambino aveva un padre Tutsi e una madre Hutu, doveva essere comunque ucciso. Anche i neonati venivano uccisi. Addirittura li mettevano dentro a dei sacchi e gli facevano sbattere la testa sul muro, oppure gli tagliavano le gambe. Alcuni bambini urlavano e imploravano: non uccidetemi, non sarò mai più un Tutsi. Oppure chiedevano alle loro madri: perché hai scelto di essere Tutsi? All'inizio gli Hutu raggrupparono le persone e dissero loro che sarebbero stati trasferiti in Borneo o in Tanzania, che bisognava solo riempire i moduli e poi sarebbero partiti. Quando dovevano uccidere gruppi numerosi, avevano bisogno di un certo numero di killer e di uomini che li tenessero a bada, perché naturalmente le vittime non si sarebbero lasciate massacrare restando inermi. Allora arrivavano dei camion o dei pullman pieni di assassini professionisti oppure di soldati dell'esercito che addirittura per uccidere usavano le bombe. Nell'uccidere provavano piacere e uccidevano in un modo particolarmente crudele. Non li ammazzavano subito, ma lasciavano che soffrissero il più a lungo possibile. Amputavano gli arti fino a che la persona non moriva dissanguata. Gli assassini usano ogni tipo di arma che trovano a disposizione. I più fortunati vengono uccisi con un proiettile. Addirittura c'è chi paga per essere finiti con un colpo d'arma da fuoco anziché venire massacrati a colpi di macete o di martello. Gli Hutu usarono armi di ogni tipo. Dettero alle fiamme le abitazioni con le persone dentro o le chiese con i fedeli radunati in preghiera. Usarono fucili, armi moderne. Insomma, usarono tutto ciò che poterono. Addirittura gettarono le loro vittime nelle fosse comuni ancora vive dopo averle torturate. Violentavano donne e ragazze per giorni e giorni. E questo orrore avviene sotto gli occhi impotenti delle forze dell'ONU, che hanno sottovalutato la situazione, come sentiamo dalle parole della giornalista Linda Melvern. Ci fu una colpevole ingenuità nei confronti del Ruanda. C'era stato un accordo di pace e l'ONU era lì per assicurarsi che venisse attuato. Doveva essere una transizione dalla dittatura alla democrazia e le truppe dell'ONU dovevano garantire questa transizione. Ma nessuno degli uomini di stanza in Ruanda aveva la più pallida idea della storia di questo paese, a cominciare dal comandante della forza di pace. Aveva una mappa Michelin, ma ignorava i rapporti sulla violazione dei diritti umani, ignorava completamente il razzismo che divideva il paese. Un errore enorme. Hanno sottovalutato la situazione del Ruanda, pensando che sarebbe stata una missione semplice. C'era un accordo di pace, il cessate il fuoco sembrava tenere, ma quando ho parlato con alcuni membri delle truppe ONU, tutti mi hanno detto che si trattava di una missione impossibile. E in questo meccanismo di morte c'è una costante che unisce la ex Jugoslavia al Ruanda. Oltre alle distruzioni, gli omicidi, le minacce, le intimidazioni, è sempre presente la violenza carnale. Un'ulteriore manifestazione di sopraffazione e di vergogna che si trasmette anche al futuro. Lo raccontano due sopravvissute. Arrivammo nella foresta, sulla riva del fiume. Ci stavano inseguendo, perciò decidemmo di dividerci. Ma riuscirono a prendermi e mi tennero con loro per 3 giorni. Quella stessa notte uno di loro mi violentò. A un certo punto arrivò un altro. Anche lui voleva violentarmi, ma gli fu detto di no. Ero troppo piccola. Quando però quello che mi aveva in custodia uscì di nuovo, quell'altro uomo mi violentò. Alla fine mi picchiò con un bastone, ferendomi alla testa. Ci sistemarono in stanze speciali. C'erano 2 stanze, in ognuna c'erano 18 di noi. Durante il giorno non ci trattavano male. Furono le ore migliori. Poi, quando ci picchiavano, non ci colpivano sul volto, ma sul resto del corpo, perché non si vedessero i segni. Facevano così perché se gli uomini fossero sopravvissuti, non avrebbero potuto dire nulla sulle torture alle donne. Oggi nei Balcani o in Ruanda ci sono dei bambini che ignorano che il loro fratello o la loro sorella siano figli dell'uomo che ha ucciso il loro padre. Ma cosa succederà quando questi ragazzi scopriranno la verità? La sete di vendetta si trasmette di generazione in generazione. Le vittime si trasformano in carnefici. Forse da quest'incubo alcuni paesi non si sveglieranno mai.